E quindi si voleva una candidatura laica. Craxi, non riuscendo a spuntarla su Giolitti, tirò fuori il nome di Pertini. Pertini aveva il prestigio che gli veniva appunto dalla sua vita e anche dal fatto di essere stato a lungo per 8 anni presidente della Camera, che è sempre nella storia della Repubblica è sempre un passaggio importante per poi trovare il presidente della Repubblica, l'aver ricoperto la presidenza della Camera. E su Pertini un'Italia politica che era ancora abbastanza frastornata per le vicende del sequestro Moro, che viveva appunto un momento complicato, trovò una quasi unanimità. Eppure con Craxi sembra non ci fossero buonissimi rapporti, o no? Come ho detto prima, Pertini non era il candidato di Craxi. Craxi cioè, intelligentemente alla fine però... ripiegò su Pertini. Perché sì, non era certo un uomo riconducibile a lui, anche durante il settennato di Pertini non mancarono momenti di attrito, ma attenzione, anche momenti di intesa e di collaborazione, fu Pertini a dare l'incarico di governo a Craxi, e forse senza Pertini Craxi quell'incarico non lo avrebbe avuto. Comunque, dicevo, Craxi intelligentemente ripiegò su un candidato che non era il suo, ma era pur sempre un candidato socialista. Ma in che cosa Pertini ha innovato invece il rapporto con la comunicazione come Presidente della Repubblica? Con la sua presenza piuttosto frequente e costante sui mezzi di comunicazione di massa. Con il suo presentarsi così come presidente del popolo, che veniva applaudito quando andava in giro, con il suo ricevere continuamente al Quirinale delle scolaresche, con il suo con la sua tendenza a commentare senza troppi peli sulla lingua. E qualche volta anche con un minimo di imprudenza, diciamo così, vicende politiche e non solo politiche. Ricordo l'imprudenza, per esempio? Beh, è la vicenda della vertenza dei controllori di volo, che Pertini intervenne personalmente per sbloccare, costringendo, diciamo la verità, in pratica, in quel caso l'azienda, l'Italia, a venire incontro alle richieste dei controllori di volo. No. Ricordo un altro episodio molto famoso, la sua presenza fisica davanti alle telecamere in occasioni drammatiche, sì, come la terribile vicenda del bambino caduto nel pozzo, Alfredino Rampi. Ecco, queste cose non erano nella prassi presidenziale italiana e Pertini le ha introdotte e ha molto contribuito alla personalizzazione della carica di capo dello Stato. È stata questa la sua rivoluzione? Se di rivoluzione vogliamo parlare, sì, è stata questa. Professore Giovanni Sabatucci, anche Pertini alla fine, secondo lei, avrebbe voluto un secondo mandato? Per quanto se ne sa, quasi tutti i presidenti arrivati alla fine se ne vanno a malincuore. Erano arrivati a prendere in considerazione l'ipotesi di una rielezione. Tutti meno l'unico che sia stato poi effettivamente rieletto, ovvero Giorgio Napolitano, che come poi ha dimostrato non aveva nessuna voglia di farlo e poi è stato in qualche modo indotto, quasi costretto a farlo. Gli altri presidenti, anche in tarda età, anche appunto, lo si disse di Einaudi, lo si disse di Gronchi, è probabile che anche Pertini a un certo punto, perché chi si abitua a svolgere quel ruolo, ad avere quella carica, finisce poi ovviamente come tutti quanti per contrarre delle abitudini. Professore Giovanni Sabatucci, Pertini ha cambiato per sempre il modo di fare il Presidente della Repubblica? Per sempre non si può dire, ha creato dei precedenti sicuramente che sulle prime non sembrano avere avuto un seguito così immediato. La presidenza Cossiga, tutta la sua prima parte, per buona parte del suo settennato, si caratterizzò per uno stile molto diverso, quasi opposto rispetto a quello di Pertini. In che cosa era opposto? Nel senso di attenersi scrupolosamente ai limiti delle sue prerogative, di essere un presidente discreto, poco interventista. Poi cambiò alla fine vennero le famose picconate, le esternazioni, eccetera. Gli altri presidenti, Scalfaro per molti aspetti invece riprese quella che era stata lo stile e anche il modo di comunicare di Pertini. Forse anche Ciampi. Ciampi meno, Ciampi secondo me fu un presidente presente sicuramente anche sui media, ma meno interventista dal punto di vista politico di quanto non lo fossero stati Scalfaro e l'ultimo Cossiga. Quindi sì, è vero, diciamo che Pertini ha rotto dei tabù, non perché prima i presidenti non si fossero mai occupati di politica, tutti se ne occuparono, alcuni in modo anche abbastanza invasivo, direi quasi tutti in un momento o nell'altro. È l'immagine, è questo apparire con la sua faccia. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.